rosso, il sole risorge, il cielo è rosso. Molte volte io sono morto, ma ogni volta poi sono risorto. Mia cara vita, ora sono tornato, te le ridarò tutte quelle che mi hai dato. Io non porgo l'altra guancia, io te le ridò tutte e con la mancia. Se ha ragione Nietzsche, partorisco stelle danzanti. Se ha ragione De André, ho fiori e non diamanti. I miei sogni son di pietra, non li puoi spezzare. M3 non arretra, non mi puoi piegare. Dentro me vive e ruggisce un leone. Su sta base sputo fuoco come un dragone. Prendi penna e carta e segnati sto nome. M3, punto a essere il migliore. Qui ogni giorno è carnevale, e ogni scherzo che ti fa la vita vale. Senza musica la vita sarebbe un errore. Senza di lei vivo nel grigiore. Entra nella mia testa, ti do l'inferno chiavi in mano. Restaci due giorni e poi ti caghi in mano. Se mi paragoni agli altri non mi chiami umano. Organizzo il mio suicidio e tu mi dai una mano. Paradiso e inferno sono qui sulla terra. Li sperimenti entrambi in questa quotidiana guerra. Io ho l'odore di entrambi addosso. Ti evitere le fiamme, ma non posso. E più Leo muore, più M3 diventa forte. M3 vive quando Leo vede la morte. E questa è la divisa della mia schiavitù. È pieno del mio sangue questo passepartout. Io non credo che la musica possa cambiare il mondo, ma può cambiare una persona fino in fondo. Le può dare senso al tuo dolore. Non fa meno male, ma cambia sapore. Vi mancano tre cose per sfondare veramente: le palle, il cuore, la terza è la mente. Hai messo M3 nel tuo iPod, hai ascoltato e detto oh my god. Paradiso e inferno sono qui sulla terra. Li sperimenti entrambi in questa quotidiana guerra. Io ho l'odore di entrambi addosso. Ti evitere le fiamme, ma non posso. E più Leo muore, più M3 diventa forte. M3 vive quando Leo vede la morte. E questa è la divisa della mia schiavitù. È pieno del mio sangue questo passepartout. Getterò il mio passato come fa l'autunno con le foglie gialle. Volerò via dal mio guscio come le farfalle. Sono un buco e fino a quando non sboccerò. Mi ripeteranno tutti che non ce la farò. Se ti hanno fatto male ora ti vendicherai. Ora sarai forte, forte come non mai. Io non dico Dio, io eletto come Neo. Questo mondo è mio, ma che vita di merda, porco. Paradiso e inferno sono qui sulla terra. Li sperimenti entrambi in questa quotidiana guerra. Io ho l'odore di entrambi addosso. Ti evitere le fiamme, ma non posso. E più Leo muore, più M3 diventa forte. M3 vive quando Leo vede la morte. E questa è la divisa della mia schiavitù. È pieno del mio sangue questo passepartout. Il sole tramonta, il cielo è rosso. Il sole risorge, il cielo è rosso. Molte volte io sono morto, ma ogni volta poi sono risorto. M3, 2012, il cielo è rosso. E sono ancora in piedi, stronzi, non mi buttate giù.